questi miei pensieri è una spiegazione, traduzione nella mente. Il tuo sguardo sembra indefinito, sei una stella intoccabile col dito. Io che mi preparo, cerco nel cassetto una giacca che mi renda sol per te un principe perfetto. Ore ed ore che pulisco le mie scarpe con un nero che si vede anche nella notte. Chissà se tu adesso mi starai pensando, mi starai immaginando al ballo come un cavaliere pronto a prenderti in braccio e intraprendere un nuovo viaggio con te. Quando entro vedo che tu stai lì sul divano sola e circondata da chi vuole prenderti e rubarmi quello che sognavo potesse chiamarmi il suo principe, il tuo abito dorato che mi illumina e spinge quella voglia di correre e mollare tutto e rubarti come fossi un farabutto. E l'amore è semplice, le parole sono favole da leggere e vivere insieme a qualcun altro che tu vorrai. Forse ho ancora un po' paura perché non so se tu vorrai. Io mi sono preparato, un discorso già imparato, ed intanto il tempo che si ferma e mi illumina a te. Ti amo, sai, le dico io, e lei arrossisce come gliel'avesse detto un dio. Non lo so se tu sei disposta a fuggire con me in una favola che io spero che diventi una realtà per noi. Ti porterà ovunque vuoi in sella al mio cavallo. La favola è scritta per noi, un principe che sta insieme alla principessa. Quando entro vedo che tu stai lì sul divano sola e circondata da chi vuole prenderti e rubarmi quello che sognavo potesse chiamarmi il suo principe. C'era una volta una fanciulla che venne presa dal suo principe, venne poi coccolata come fosse una fata, venne amata tanto come quanto canto, nel mio cuore sento ancora, basta un gesto, solo una parola davanti a me, solo per me. Mi basta che tu dica che sia la mia principessa. Sia la mia principessa. Come un principe. Come un principe. Sentirai la musica nel cuore. Se sarai il mio grande amore, prenderai matita e foglio e mille volte scriverai lo voglio. Tu vivrai sempre nel mio cuore, sarò il trucco di ogni tua mattina. Io sarò ogni tuo paio di scarpe, userò le labbra solo per baciarti. Con principe, con principe, con principe, con principe. Dove voleremo ancora non sali sul mio cavallo e con te poi correrò. Salimi sulle spalle se tu lo vuoi. Prova a immaginarmi come.